Nelle tue mani la meccanica si arrende, per tutte le anime che passano da qui. È una scintilla che si spegne e si riaccende, tutti i colori si compongono così. Si ferma un bacio ed un sorriso permanente, ed un abbraccio si prolunga finché vuoi. È tempo e luce qui contemporaneamente, per accorciare le distanze fra di noi. Sono i tuoi occhi nel mondo e tu lo vedi così, tutta la luce del giorno per catturarla da qui. Sono i tuoi occhi nel mondo, vedi un dettaglio di me, con una nuvola in fondo puntata verso di te. Nel mondo e tu lo vedi così, tutta la luce del giorno per catturarla da qui. Sono i tuoi occhi nel mondo, vedi un dettaglio di me, con una nuvola in fondo puntata verso di te. Trasparente, per ricordare pure quello che non vuoi. Si ferma il tempo e ne hai bisogno finalmente, un passo dopo l'altro arrivi dove puoi. Si calma il vento per un attimo soltanto, fra i capelli lascia un tocco di magia, un posto nuovo che hai sognato chissà quanto, fino a che non è tardi non andare via. Sono i tuoi occhi nel mondo, cercando un battito in più, da respirare a colori e incorniciare di più. Di fiori arrampicato lassù, ho immaginato me stesso e forse c'eri anche tu. Sono i tuoi occhi nel mondo, cercando un battito in più, da respirare a colori e incorniciare di blu. E su quel prato di fiori, arrampicato lassù, ho immaginato me stesso e forse c'eri anche tu.